Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Vi sembrerà strano l'inizio di questa puntata, alla quale come sempre vi do il benvenuto. Indumenti e stati mentali, parleremo di questo. I titoli però, ora, ascoltiamoli insieme. Indumenti carichi di sensori per misurare lo stato psichico di chi li indossa. Ci stanno lavorando al Centro Piaggio dell'Università di Pisa. Dalla rinoplastica del 500 ai concorsi di bruttezza del primo 900, ripercorriamo la storia della chirurgia estetica. Nel Venezuela, travagliato dai contrasti sociali e dalla povertà, la musica classica offre un'occasione di riscatto. Un documentario italiano ne descrive gli aspetti sociologici. Un miliardesimo di grammo. Il peso delle particelle di una cometa e delle polveri sottili misurato da microbilance a cristalli di quarzo. Come andare sott'acqua e prendere nota di flora e fauna, ma bisogna immergersi nel Mar Rosso, guidati dall'Università di Bologna. In casi di disagio psichico di un certo rilievo, si può indossare qualcosa e capire che cosa sta succedendo. Enzo Pasquale Scilingo, buonasera. Buonasera. Del Centro Piaggio dell'Università di Pisa, noi spesso veniamo da voi perché fate delle cose notevoli in tanti campi, che si possono definire, come potremmo chiamarli, protesi d'ogni natura, amplificatori delle capacità umane, sia nel fare delle cose che nel dover analizzare, come in questo caso, no, i nostri comportamenti. Esatto, sì, possono essere definite come sistemi di monitoraggio, fondamentalmente di parametri sia fisiologici che comportamentali. Va bene, senta, proviamo a spiegare allora prima molto semplicemente qual è l'oggetto sul quale state lavorando. Allora, caso di disagio psichico, come potrebbe essere un disturbo bipolare? Vogliamo rapidamente dire di che si tratta? Sì, dunque, il bipolarismo è una malattia, è un disordine mentale che è caratterizzato dall'alternanza di stati di depressione, quella classica caratterizzata proprio da malessere, da disagio, da malinconia, insomma, e da stati di cosiddetti maniacali, in cui c'è un'esuberanza particolarmente spinta, un'euforia, in alcuni casi anche portato all'eccesso. E queste due fasi si possono alternare con periodi che possono ovviamente variare da soggetto a soggetto. Quindi ci sono delle fasi in cui un paziente è completamente depresso, e dopo un certo periodo di tempo, che può ovviamente variare, può invece diventare entrare nella fase maniacale e avere invece uno stato di euforia particolarmente elevata. In questi casi potrebbe diventare interessante quello che voi state progettando, e cioè praticamente è un indumento, una canottiera, immagino, un qualcosa che, una maglieria intima, diciamo, no? Esatto, è uno strumento, una maglietta a tutti gli effetti che aderente alla pelle. Esatto, si dice che va a diretto contatto con la pelle. E che contiene un insieme di sensori, magari ci dica che cosa sono un po' questi sensori, che riescono a monitorare questo disagio e la sua evoluzione. Esatto, dunque la maglietta di per sé è in grado, ha integrato nella struttura tessile una serie di elettrodi e sensori. Elettrodi per misura di segnali di biopotenziali, cioè elettrocardiogramma, respiro e altri tipi di, cioè la risposta elettrodermica e altri tipi di segnali come questi. E sensori per rilevare il movimento, quindi del corpo, di particolari segmenti corporei. Diciamo l'ipotesi, che è un'ipotesi abbastanza forte, che comunque vorremmo validare nel corso di un progetto in cui noi siamo coinvolti, è quello di capire se c'è una correlazione tra l'andamento e l'alterazione di questi parametri fisiologici e di movimento con lo stato mentale del soggetto, e quindi capire se esiste una correlazione con lo stato di depressione del soggetto oppure con lo stato maniacale. Questo perché in qualche modo, attraverso una maglietta, quindi attraverso un approccio metodologico oggettivo, potrebbe essere interessante riuscire non solo a monitorare lo stato mentale del paziente, ma la cosa più importante è predirne ovviamente il passaggio da una fase all'altra. Ecco, perché in tutta la scienza della sensoristica, anche quando si applicano i sensori per valutare cosa può succedere nei terremoti, quindi per andare in un campo estremamente lontano, in tutta la sensoristica un momento cruciale è quando la si riesce a usare come sistema che ci avverte di qualcosa che sta per arrivare. Voi pensate che ci siano dei dati che possono arrivare, poi incrociandoli tutti, dal corpo, che possono dire questa persona sta entrando per esempio in uno stato di euforia, che però appunto sappiamo essere un'euforia patologica? Certo, esatto, perché la sfida è esattamente questa, proprio quella di avere un quadro anche ridondante di una serie di segnali e correlarli fra loro per capire se c'è questa associazione. Tenga conto che finora questo tipo di disagio, di disordine mentale, viene diagnosticato solo sulla base di un quadro clinico e sintomatologico, cioè lo psichiatra attraverso un'intervista chiede al paziente come si sente, e dalla coesistenza di più sintomi deriva la diagnosi del bipolarismo. Che forse possiamo aggiungere anche che però sono test con tante domande nati da tante case history, quindi diciamo non è una banale conversazione. Però voi dite può essere decisamente meglio anche ricorrere a delle indicazioni come queste. Ma le chiedo questo: la persona, insomma il soggetto, è assolutamente consapevole di avere indosso una maglietta di questo genere? Deve anche fare delle operazioni, oppure tutti i segnali arrivano in remoto, li cogliete a distanza? Dunque, tutti i segnali vengono raccolti in una memory card, quindi in una piccola elettronica che il paziente ha indosso. Il paziente ovviamente è cosciente del fatto che viene monitorato, e lì c'è tutto un problema dell'accettabilità da parte di questi pazienti, è uno degli aspetti che noi vorremmo anche un po' studiare e investigare. Ovviamente potranno esserci pazienti più collaborativi e pazienti meno collaborativi. Certo. Solo una precisazione: questo sistema di monitoraggio non ha la pretesa ovviamente di porsi in alternativa alla pratica clinica standard psichiatrica, ma coadiuvarla. Cioè, esatto, quindi diciamo utilizzare questa tecnologia per cercare di aiutare lo psichiatra nella diagnosi e anche poi eventualmente nella predizione di eventuali modifiche dello stato mentale del paziente. Posso anche immaginare che pazienti che siano sottoposti a un trattamento farmacologico, bene, questo indumento è anche in grado forse di misurare in che modo questa terapia può avere un certo successo, può avere presentare dei problemi. Uno degli obiettivi appunto di questo studio è quello anche di studiare, investigare la risposta al trattamento quindi capire se un trattamento farmacologico per esempio risulta essere più o meno efficace rispetto ad altri, e quindi questo è anche uno degli obiettivi, anche perché gran parte, anzi quasi tutti diciamo i pazienti bipolari, se non tutti, sono sottoposti a trattamento farmacologico. Loro assumono comunque degli stabilizzatori di umore o comunque degli inibitori di della ricattura di ormoni particolari, eccetera, quindi loro comunque assumono farmaci. Questo strumento potrebbe a maggior ragione, ripeto, in associazione comunque con il controllo e la supervisione da parte dello psichiatra, potrebbe dare ulteriori elementi per valutare se il trattamento farmacologico funziona oppure se deve essere modificato, migliorato, eccetera. Insomma, questo è un po' l'obiettivo. Adesso voi siete nella fase di ricerca, quindi bisogna sperimentare liberamente. La vostra sensazione però è che nel momento in cui questo oggetto fosse prototipato e quindi si potesse pensare ad un suo utilizzo diffuso, dovrebbe essere qualcosa da costi accessibili, insomma, pensando di produrlo in un certo numero, insomma, non è una cosa preziosissima. Certo. Dunque, diciamo che il sistema in sé non è un sistema ovviamente costoso, poi ovviamente il costo di un prototipo dipende ovviamente dal numero della produzione, eccetera, sicuramente sì, però diciamo che la parte, cioè la maglietta in sé è fatta da tessuto, quindi da fibre, da fibre tessili. Ovviamente c'è tutta una tecnologia tessile per realizzarla, ma quella è un investimento, come dire, una sorta di costi fissi iniziali che in qualche modo possono essere poi ammortizzati nel tempo. Sicuramente una parte, diciamo, abbastanza importante viene svolta dall'elettronica, che comunque deve essere un'elettronica miniaturizzata, molto piccola, eccetera, e poi dalla software di elaborazione e di estrazione di features importanti e rilevanti che permettano poi di classificare lo stato emotivo del paziente. Quindi diciamo che complessivamente il costo non è già di per sé, realizzando dei pochi esemplari, non è un costo elevato. Ovviamente se andasse verso una diffusione più ampia, ovviamente i costi verrebbero abbattuti in maniera drastica, insomma. Sensibilmente. A che punto siamo all'inizio di questa ricerca? O quasi all'inizio? Siamo all'inizio perché, dunque, questa è una ricerca che viene svolta all'interno di un progetto di ricerca europeo, di cui io sono il coordinatore, che è iniziato da gennaio di questo anno. È un progetto che dura 40 mesi. E quindi già nel corso di quello siamo già a metà del primo anno e quindi durante il primo anno diciamo che l'obiettivo è proprio quello di andare un po' a identificare tra tutti i vari parametri fisiologici, comportamentali, ma anche per esempio analisi della voce, analisi del sonno, perché comunque per esempio il sonno è uno di quegli aspetti che è un indicatore. Esatto, perché è molto disturbato, sia in un verso che nell'altro, cioè sia per chi soffre di insonnia ma anche chi dorme invece di più rispetto alla norma. Quindi diciamo andare a identificare quali tra tutti questi parametri invece sono quelli più significativi e che possono essere quindi poi utilizzati per classificare lo stato mentale del paziente. E quindi diciamo è un progetto che vede coinvolti, è un consorzio che è multidisciplinare, fatto da 10 partner europei. Sono 3 italiani, ma c'è un centro, 2 partner francesi, 2 svizzeri, uno tedesco, uno spagnolo e uno dall'Irlanda, quindi insomma è abbastanza eterogeneo anche come paesi europei. E anche diciamo c'è l'ultima parte del progetto, ovviamente sarà focalizzata sulla validazione clinica, quindi gli ultimi 10 mesi del progetto verranno diciamo fatti degli esperimenti sui pazienti utilizzando la maglietta o comunque il sistema che noi nel frattempo siamo riusciti a sviluppare. E centri psichiatrici ce ne sarà uno a Pisa, però ce ne avremo anche altri, uno a Strasburgo e un altro a Ginevra, in cui sono centri psichiatrici in cui avranno i loro pazienti. Quindi l'idea è anche poi quello di confrontare i risultati ottenuti nei vari centri per capire effettivamente se siamo riusciti ad ottenere dei risultati accettabili, soddisfacenti oppure no. Enzo Pasquale Sciringo, grazie e buona ricerca. Grazie a lei, buona serata. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Chiara Albicocco, tu sei qui perché vuoi che io mi metta l'avambraccio sul naso, che adesso ci provo. Intanto buonasera a te, buonasera agli ascoltatori. Devi mettere il braccio, anzi l'avambraccio, sul naso, esattamente così, poi metti il palmo della mano dietro la nuca, esatto. A tenermi la nuca. Perfetto, e ora ti fascio. E ora mi fasci? Sì, 2-3 settimane. E io dovrei stare 2-3 settimane in questa posizione? Sì, se vuoi un naso più bello, sì. Ritorniamo sul tema della chirurgia estetica. Ho tolto l'avambraccio perché penso che sia effettivamente fondamentale. Ne avevamo accennato brevemente per lanciare un libro qualche settimana fa, un mese fa. Avevamo già accennato di questo libro, però la storia è particolarmente interessante. La dottoressa Rossella Ghigi, che è docente di sociologia generale all'Università di Bologna, ci ha raccontato un sacco di cose e io ci tenevo insomma a farle sentire agli ascoltatori. Ricordo il titolo del libro per piacere: Storia culturale della chirurgia estetica, edizione Il Mulino. È veramente è gustosissimo questo libro e all'interno ci sono delle descrizioni anche piuttosto bizzarre, se vogliamo anche un po' schifose. Come questa che riguardava il mio avambraccio, per fortuna sì, non il esatto, mio avambraccio, ma che però ha riguardato molti avambracci. Perché serviva? Cosa si faceva? Era una tecnica utilizzata dal Tagliacozzi, che era un chirurgo medico del 500, se non erro, e aveva messo a punto questo metodo italiano di rinoplastica ricostruttiva, quindi plastica al naso. Ecco, procedeva così: preparazione di un lembo cutaneo nel braccio del paziente. Il taglio dell'estremità prossimale di questo lembo dopo alcuni giorni,

anche con una certa prepotenza nelle nostre case, nel nostro immaginario, nel nostro linguaggio, in maniera così ampia. Questo è senz'altro un fenomeno contemporaneo, però il fatto che ci fossero delle persone interessate a ricostruire parti, certo, del loro corpo per renderle più piacevoli all'aspetto, ebbene, questo non è assolutamente un fenomeno nuovo. Ecco, poi leggendo il suo libro ho scoperto che anche la cellulite è stata in qualche modo scoperta. Sì, mi piace utilizzare il termine inventata, ecco, in più che scoperta, perché in effetti ho potuto ricostruire la storia dell'invenzione di questa non malattia, che ha avuto naturalmente un successo, che ha rappresentato un successo economico per molte case farmaceutiche, di cosmetici ancora oggi. Beh, certo, ora è proprio un business. Ho potuto, insomma, vedere come la cellulite propriamente detta ha una data di nascita, nasce a fine 800 in Francia e mano a mano si diffonde per l'Europa. Ecco, lei nel suo libro parla anche della cellulite della nuca, sì, che per alcune donne è stato un vero problema, no? Sì, in realtà anche semplicemente negli anni 30 del Novecento le riviste femminili parlavano di cellulite della nuca, cioè veniva localizzata, ma anche nei testi medici, soprattutto appunto nella nuca oppure sulle caviglie, ed erano ovviamente anche le parti più visibili del corpo femminile. Un'altra cosa caratteristica della storia della cellulite è che comunque dove fosse localizzata era una cosa che riguardava le donne. Certo. Oggi naturalmente la localizziamo più in altri punti, ma la cosa interessante è che appunto l'ansia della cellulite è nata via via che veniva anche diffuso questo termine, diffusa anche appunto nell'immaginario la sua entità, la sua esistenza. Sì, però adesso la cellulite sulla nuca non esiste più, no, possiamo dirlo. No, non se ne parla più. Era una fissazione. Naturalmente la nuca può essere un luogo in cui viene localizzato un accumulo di grasso, ma diciamo l'ansia sociale si è spostata su altri punti del corpo. E poi c'è un bel passaggio dove, anziché parlare dei concorsi di bellezza, parla dei concorsi di bruttezza, che addirittura nel 1924 a New York c'è stato questo concorso in cui il premio era abbastanza interessante, no? Sì, questo è un altro esempio dei diversi esempi, insomma, che propongo nel libro, in cui voglio mostrare quanto appunto alcune cose che possono essere considerate tutte attuali sono in realtà appunto anche radicate nel passato, a iniziare dal fatto di proporre come premio in un concorso una ricostruzione estetica con l'opera di un chirurgo. Il concorso appunto che cito come esempio è proprio questo di un giornale, il Daily Mirror, che proponeva alle proprie lettrici: inviate le vostre foto, la più brutta di New York, vedrà pubblicata la propria foto ovviamente in forma anonima, cancelleremo gli occhi in modo che non possa essere riconosciuta, ma vincerà come premio la ricostruzione da parte di un chirurgo estetico. Quindi, e parliamo appunto del 1924, quindi quasi un secolo fa, già allora si parlava appunto di utilizzare la chirurgia estetica anche, insomma, nella sua promozione ovviamente, anche appunto in riferimento a qualcosa con cui essere premiati. Ed è la stessa cosa se noi pensiamo alle trasmissioni di sì, oggi, reality, tipo il brutto anatrocolo, sì. Sono, in realtà la logica è la stessa. Ripeto, quello che cambia è la diffusione nell'immaginario oltre che nelle pratiche, perché a pensare di rifarsi o insomma a metterlo in conto prima o poi sono sempre di più le donne di diverse classi sociali, sempre di più gli uomini, anche se diciamo il gap di genere è ancora forte, soprattutto in Italia, nel ricorso alla chirurgia estetica, e sono soprattutto le nuove generazioni. Nel libro ne parlo. Nell'ultima parte, sì, è interessante, in cui cita anche le chat o proprio i discorsi che fanno le ragazze, no, su questo tema. Sì. Sì, questo infatti è stato un altro aspetto. Io poi da sociologa mi sono interessata anche molto ovviamente dell'attualità, quindi tutta la seconda parte del libro è proprio pensata e concentrata sull'attualità e ho potuto analizzare chat di giovani che si scambiano pareri, messaggi sul voglio rifarmi il naso, i miei genitori non vogliono, il mio ragazzo non vuole che io rifaccia il seno, eccetera, e anche ho potuto intervistare giovani donne o ragazze che appunto mi hanno raccontato di aver voluto ricorrere al bisturi per sentirsi più in pace con se stesso. Certo, insomma, sì, ovviamente sì. Il linguaggio riprende anche quello con cui la chirurgia estetica viene promossa. Un caso interessante è stato quello di una ragazza qui a Bologna che lavorava, una studentessa all'università, che lavorava ogni fine settimana in un supermercato per potersi pagare la mastoplastica additiva, cioè il seno, l'ingrandimento del seno. Mi diceva: i miei genitori non vogliono, ma io me lo voglio meritare, me lo sarò conquistato e lavoro fine settimana proprio per... Ce ne sono tante, sì, ce ne sono tante di storie così. Quindi, insomma, materiale ce n'è per scrivere il secondo volume. Io intanto la ringrazio, dottoressa Ghigi, ricordo il titolo del suo libro, Per piacere, storia culturale della chirurgia estetica, edizione Il Mulino. Grazie e buona Grazie. Serata. Che storie tremende, ma anche simpatiche, direi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Sono appena uscito da una tre quarti d'ora di immersione con le bombole e sono sul Mar Rosso. Posso anche essere uscito da una tre quarti d'ora di ispezione con pinne, maschera e tubo. Esco e trovo Stefano Goffredo, che è qui con noi stasera. Buonasera Goffredo. Buonasera. Dipartimento di Biologia dell'Università di Bologna. Trovo Stefano Goffredo che mi chiede, cosa mi chiede? Le chiedo se per cortesia voglia di spendere con me 5 minuti del suo tempo dopo l'immersione. Va bene. Per compilare una semplice scheda di rilevamento in cui sono rappresentate delle specie animali e vegetali che sono importanti per l'indicazione della qualità ambientale della scogliera corallina che lei ha appena visitato. E le chiedo di segnalarmi nel questionario quale di queste specie si ricorda di aver avvistato nel corso della sua immersione. Cioè mi fa vedere delle immagini? Sì, su un questionario, una brochure, c'è cioè una parte, due sezioni dedicate alle fotografie ad alta definizione delle specie target nel nostro censimento. Che specie, poi, per esempio, Goffredo, cosa mi fa vedere? Ma ad esempio il pesce balestra, ad esempio la murena, ad esempio il polpo, la tartaruga, tutta una serie di coralli, sia coralli molli che coralli duri, che sono appunto nel complesso, rappresentano la catena alimentare, gli stadi principali della catena alimentare della scogliera corallina, dell'ecosistema corallino, e quindi dando un'indicazione di quante di queste specie ha visto. Sì. Nel corso della sua immersione riusciamo ad avere una indicazione della qualità ambientale. Cioè, del Mar Rosso, no? Voi fate questo lavoro sul Mar Rosso, tra l'altro non lo state facendo da poco, siamo già a che anno della vostra ricerca? Il 2010 è il quarto anno. Per un totale quindi di quante persone come me uscite dall'acqua? Nei primi tre anni abbiamo raccolto dalle zone di Sharm, Hurghada e Marsalam oltre 18.000 questionari. 18.000 questionari, quindi sì. Una base di dati consistente. Sicuramente consistente dal punto di vista quantitativo, dal punto di vista della distribuzione geografica anche ampia, perché copriamo diciamo quasi tutte le coste egiziane con dei siti anche che grazie ad alcune barche da crociera che partecipano al progetto riusciamo ad avere anche indicazioni dalle coste dell'Arabia Saudita, dello Yemen, però sì. la parte maggiormente battuta è quella del Mar Rosso. È quella del Mar Rosso. Ecco, ma del Mar Rosso egiziano. Del Mar Rosso egiziano. Sì. Ecco, ma potremmo essere in tanti ad aver visto lo stesso polpo. Voi cosa avete? Avete poi del software che cerca di incrociare dati possibili, sovrapposizioni, cose di questo genere? Sì, noi poi facciamo delle frequenze frequenze di avvistamento, chiaramente, diciamo, ad esempio, se lo stesso organismo è stato visto da più subacquei nello stesso sito, noi poi chiaramente ponderiamo, normalizziamo il dato del numero di avvistamenti rispetto al numero delle immersioni eseguite o il tempo di immersione, quindi vengono poi dati espressi sotto forma di frequenza. Sì, sì, ci sono dei calcoli piuttosto complicati ma molto efficienti in questi casi per trovare il dato più puro, diciamo, più grezzo. Però allora voi non solo mi chiedete che cosa ho visto, ma mi chiedete anche esattamente dove sono andato, insomma, c'è una certa localizzazione dell'informazione. Sì, chiaramente, esatto, il dato proviene da un sito. Il sito è un sito di immersione che è definito, diciamo, da una superficie media di 10.000 metri quadrati e ha un nome, il sito ha delle coordinate geografiche, ecco. Ha, diciamo, poi la sua immersione è caratterizzata da una profondità, da un tempo, certo, quindi abbiamo tutti i dati tecnici dell'immersione, chiaramente. Oh, dunque noi stiamo raccontando questa cosa perché chiunque in ascolto voglia partecipare a questa attività di censimento, che, diciamolo, queste sono attività di un'importanza elevatissima, perché è solo mobilitando tanta gente che si possono fare queste cose. Figuriamoci se la ricerca ha i mezzi, ma non solo in Italia, voglio dire, di mobilitare centinaia di persone per fare rilevamenti di questo genere. Ecco, chi volesse partecipare a questa cosa, che cosa fa? Si mette in contatto con voi tramite un sito e dice: io sarò da quelle parti il 27 di agosto. Allora, noi abbiamo un sito che è www.steproject, che è il nome del progetto. Ste è Savona Teramo Empoli. Esatto. Steproject.org. Sì. Lì è possibile, diciamo, avere tutti, vedere i risultati della ricerca, ma poi, per rispondere esattamente alla sua domanda, cioè, abbiamo una serie di siti, di centri di immersione lungo le coste del Mar Rosso, dove è possibile trovare il personale formato da noi, quindi sono istruttori, guide subacquee, ho capito, che accompagnano i clienti, i subacquei in immersione, sì, e prima e dopo l'immersione fanno dei briefing e assistono il volontario subacqueo nella compilazione delle schede. Quindi c'è anche un addestramento. Stiamo parlando spesso di subacquei con bombole, ma anche chi va in apnea può essere utile, no? Sì, anche gli snorkelisti, che era molto utile, perché mentre i subacquei hanno un avvistamento medio a profondità, diciamo, intorno ai 20 metri, perché quella è la profondità media di un'immersione ricreativa, spesso, diciamo, perdono le informazioni invece relative alle parti più superficiali del reef, quindi sono quelle coperte dagli snorkelisti, quindi da coloro che si immergono solo con maschere e pinne. Quindi chiaramente poi il dato che noi riceviamo lo correliamo alla profondità da cui va alla profondità dell'immersione. Stefano Goffredo, credo che abbiamo detto tutto. Allora ripetiamo il sito: project.org. Andate lì e se volete partecipare a questo grande censimento. Auguri, buon lavoro, ci darà un po' di dati quando... Sicuramente, ci sentiamo a fine dell'estate con la prima elaborazione e l'aggiornamento dei dati, volentieri. Grazie e buon lavoro. Grazie a tutti i subacquei. Oh, dunque, mettere su un'orchestra può essere utile per migliorare le condizioni psicologiche, il disagio sociale di giovanissimi e poco fortunati esseri umani? La risposta ve la dà Barbara Gallavotti. Il Venezuela è uno dei paesi più violenti del mondo, dove le differenze fra ricchi e poveri sono così abissali da essere quasi insormontabili. Quasi, in effetti, perché da oltre 30 anni è in atto un progetto che unisce ragazzi delle baraccopoli e quelli della borghesia. Rappresenta per moltissimi l'unica finestra verso un mondo normale. Il progetto si chiama Sistema di Orchestre Infantili e Giovanili del Venezuela e oggi vede coinvolti più o meno 300.000 ragazzi impegnati in circa 150 orchestre. Da qui sono usciti alcuni straordinari talenti musicali, ma sono usciti soprattutto tanti piccoli eroi che hanno vinto la loro personale battaglia contro un destino di degrado. Cristiano Barbarossa, per 5 anni, ha seguito le storie di alcuni di loro, raccontandole in Slam Symphony, Allegro Crescendo. È un documentario che ha già conquistato una nomination come miglior documentario al Globo d'Oro 2010 e ha vinto il premio della giuria internazionale al Roma Fiction Fest. Buonasera, Cristiano Barbarossa. Buonasera, salve. Intanto ci racconta come funziona questo progetto. Fra l'altro è stato iniziato da una persona di origine italiana e si tratta dell'economista direttore d'orchestra José Antonio Abreu Anselmi. Sì, a questo progetto partecipano bambini che partono, diciamo, più o meno già dall'età di 3 anni e poi vanno avanti, diciamo, per il corso di tutta la loro vita, perché poi si perfezionano. Il primo approccio ovviamente è ludico, dato che nel momento in cui vengono coinvolti dei bambini che magari hanno grandi difficoltà in famiglia, addirittura vengono dalla vita di strada, non puoi fissarti su troppe ore, diciamo, di solfeggio oppure sulla postura, e tutte cose poi vengono ovviamente approfondite in una fase successiva. Si sfrutta ovviamente la grande predisposizione che hanno questi ragazzi verso il ritmo e la musica, nel senso che fanno musica con qualsiasi cosa, da un barattolo fino a una scatola. Alcuni di loro, diciamo, li abbiamo iniziati a seguire all'età di 8 anni, i personaggi del nostro documentario. La cosa che più colpisce, diciamo, la grande carica di energia, i sorrisi, la gioia che hanno quando fanno musica insieme. Insomma, sin dai primi rudimenti li abbiamo seguiti fino poi a quando sono saliti sulla ribalta internazionale, come nel caso di Angelica, che è una delle nostre protagoniste, con talento straordinario, che abbiamo seguito dall'inizio fino a quando ha fatto un concerto diretto dal maestro Claudio Abbado. Ecco perché in effetti da queste scuole escono dei musicisti che hanno poi un enorme successo. Sì, la punta di diamante di questo sistema orchestra è considerato senz'altro Gustavo Dudamel, che ha solo 28 anni, è una star nel mondo della musica classica, è divenuto direttore della Filarmonica di Los Angeles. Poi c'è Exxon Ruiz, che è un contrabbassista, che è il più giovane componente dei Berliner. E poi c'è l'orchestra dei ragazzi più giovani, che è la Simon Bolivar, che ormai incide con Deutsche Grammophon, insomma, quindi sono assolutamente consolidata. Noi l'abbiamo seguita un po' in giro per tutto il mondo, attraverso i nostri personaggi, nei grandi successi, insomma, da Londra a Parigi fino alla Spagna e agli Stati Uniti. E cosa succede a chi invece non entra in questa punta di diamante che va in giro per il mondo? Diciamo che questo sistema di orchestre non è propriamente una fabbrica di musicisti, quindi il progetto nasce come progetto sociale prima che artistico. Poi i risultati qualitativi sono eccezionali, come spesso sottolinea un personaggio come Simon Rattle. La musica non è però il fine, diciamo, è il mezzo per trasmettere a questi ragazzi una forte etica dello studio, il valore del lavoro, degli impegni da rispettare, insomma, la meritocrazia, per la quale se io sono un primo violino lo devo al fatto che sono bravo e che ho studiato e non, diciamo, un caso. Le statistiche dicono che i ragazzi che frequentano le orchestre nel pomeriggio vanno meglio a scuola come rendimento la mattina. Molti scienziati, economisti, medici, o comunque gente che fa parte del mondo del lavoro, oggi si sono affermati grazie al fatto che hanno fatto parte di questo sistema, sin da piccoli. Sì, sì, sì. Poi ovviamente chi non ce la fa, noi, uno dei nostri protagonisti, una ragazzina Edi che lasciamo, diciamo, a 14 anni, ha lasciato lo studio della musica perché vive in un quartiere difficilissimo, grandi problemi, però va molto bene a scuola, questo gli è servito tantissimo. Ecco, per dare un'idea, una parte che io ho trovato particolarmente toccante è quella in cui uno dei vostri protagonisti dice che lui vorrebbe portarsi il violoncello a casa, ma non può perché piove in casa e non potrebbe, sì, tenerlo. Sì, lui è Jonathan, che è un ragazzo che vive in una zona che in passato ha avuto un'alluvione terribile, e che, se uno si mette a vedere la sua storia, su 5 fratelli, 3 fanno uso di droghe, lui e l'altro fratello, che invece studiano musica, sono bravissimi, studiano uno strumento e si sono sempre tenuti lontani, insomma, dai pericoli della vita di strada. Lui realizza il suo sogno perché riesce a diventare maestro di musica, di violoncello, nella scuola dove ha iniziato, nel riformatorio dove ha iniziato da bambino. Ecco, il vostro documentario è stato già trasmesso in Giappone, poi dovrebbe esserlo in Irlanda, in Spagna, naturalmente in Italia su Rai 3. Lo vedremo anche nelle sale? In Italia verrà trasmesso, sì, probabilmente in autunno da Rai 3. Per quanto riguarda le sale, diciamo, io e Lorenzo Torraga, che è il produttore che mi ha seguito in questa avventura un po' visionaria dei 5 anni, ovviamente siamo una realtà indipendente. Per il momento ancora non c'è una distribuzione, ma insomma siamo fiduciosi che qualcosa si stia muovendo. Grazie a Cristiano Barbarossa, buonasera. Grazie a voi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. No, no, non possiamo pesare noi, siamo enormi rispetto a questo tipo di pesate. Ma se fosse possibile redigere una storia della litigiosità percorrendo alcune migliaia d'anni di vicende umane, io penso che probabilmente troveremo nei primi posti delle cause di lite le bilance, perché pesare ha spesso significato vendere, comprare, quindi anche truccare, barare, insomma, se sono viste di tutti i colori. Poi sono arrivate bilance e sistemi di peso molto efficienti, difficili da contraffare, molti controlli, le liti sono certamente diminuite, anzi direi sono scomparse. E adesso arrivano le microbilance, per le quali un capello è come un tronco d'albero. Ve ne parla Chiara Albicocco. In grado di pesare le particelle che compongono la coda delle comete, ma anche le polveri sottili che costituiscono il particolato più nocivo dell'inquinamento urbano. Ecco, sono le microbilance ai cristalli di quarzo, in grado di pesare fino a che micropeso, Ferrini? Fino ai nanogrammi, cioè al miliardesimo di grammo. Intanto buonasera Gianluca Ferrini, lei è astrofisico e fondatore della Novetec. Buonasera, sì esatto, sono astrofisico e fondatore della Novetec SRL, questa spin-off company dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Ecco, perfetto, la vostra tecnologia è nata da un'esigenza ben precisa dell'Agenzia Spaziale Europea, a cui serviva proprio uno strumento di precisione da portare su Rosetta, la sonda spaziale. Esatto, sì, praticamente c'è una suite di strumenti che fa parte di un progetto per la missione Rosetta, e tra questi c'erano anche questi sensori che sono le microbilance a cristalli di quarzo, che è questa tecnologia che abbiamo studiato e a quel punto applicato a questa missione. Che cosa misuravate su Rosetta e che cosa misurate sulla Terra? Allora, su Rosetta verrà misurato nel 2014, quando la sonda arriverà a incontrare la cometa che è target di questa missione. Sì, ecco, infatti lo strumento è su Rosetta, ma Rosetta ancora non è arrivata a destinazione. Sì. Esattamente. E quello che misurerà appunto sono le polveri che vengono emesse nella coda della cometa. Una cometa è sostanzialmente composta da ghiaccio e polveri in pratica, e in prossimità del Sole, quando appunto l'interazione con la radiazione solare incomincia ad emettere, all'interazione con la radiazione solare incomincia ad emettere ghiaccio e polveri che fanno parte del nucleo della cometa. E queste polveri sono appunto polveri di dimensioni microscopiche, che contengono però in effetti gli elementi fondamentali costituenti l'universo, perché sostanzialmente dobbiamo renderci conto che le comete nascono alle origini del sistema solare, e quindi inglobano in sé praticamente i mattoni fondamentali che hanno poi costituito pianeti meteoriti e così via. Tutti i corpi celesti presenti nel sistema solare. Quindi è importante conoscere il più possibile della composizione, certo. È importante conoscere il più possibile delle proprietà fisiche e chimiche delle polveri, e anche tutta la storia, da come nascono a come appunto si diffondono poi nello spazio. E invece sulla Terra servono per un uso molto diverso, però altrettanto forse ancora più utile. Sì, in effetti il passaggio dallo studio di queste polveri, che comunque sono polveri sottili presenti nelle atmosfere cometarie, ma anche in altri ambienti planetari, in realtà il passaggio allo studio delle polveri sottili presenti in atmosfera è stato quasi automatico, perché sostanzialmente stiamo parlando di oggetti delle stesse dimensioni e molto spesso con caratteristiche molto simili sia di morfologia che di composizione. In ogni caso però le polveri inquinanti, cioè quelle che noi indichiamo inquinanti, che sono poi polveri che hanno un'origine più che altro antropica, più che naturale, ovviamente presentano delle caratteristiche che sono pericolose per l'uomo una volta inalate, e quindi è necessario monitorarle e studiarle. Ecco, allora veniamo al funzionamento. Abbiamo detto che sono microbilance ai cristalli di quarzo e sfruttano delle proprietà del quarzo intrinseche, quindi il funzionamento non è così complicato, giusto? No, la cosa simpatica di questa tecnologia è che effettivamente è una tecnologia molto semplice e che utilizza un principio noto già da tanto tempo. Cioè, praticamente, appunto, essendo il quarzo un materiale piezoelettrico, oscilla con una certa, può essere indotto a oscillare con una certa frequenza, però se uno frena questa oscillazione in modo controllato, in effetti, diciamo, mediante questo sistema che utilizza sostanzialmente una forza inerziale, praticamente riesce a individuare la massa dell'oggetto frenante, in pratica. Allora, vediamo se ho capito bene. Il quarzo di per sé ha questa oscillazione, tra virgolette, intrinseca, naturale. Esatto. Quando si posiziona sopra il peso, in questo caso le polveri sottili, quindi dei micropesi, l'oscillazione varia. L'oscillazione varia, esatto. Voi misurate questa variazione. Esattamente, ponendo una massa sul cristallo, la sua oscillazione è frenata in qualche modo dalla presenza di questa massa e questa variazione dell'oscillazione può essere misurata e può essere messa in corrispondenza con la massa stessa, e quindi può essere misurata la massa. Ecco, lo strumento ci restituisce delle misure molto precise. Sono strumenti molto molto sensibili, quindi con un opportuno metodo di misurazione e con l'opportuna elettronica, ovviamente, che noi realizziamo, è possibile ottenere delle misure veramente molto molto precise appunto nell'ordine dei nanogrammi. Quindi la tecnologia è piuttosto semplice, ma voi siete stati bravi nell'intuizione, tanto che voi e il vostro spin-off per queste bilance avete ricevuto anche un importante riconoscimento. Insomma, siete stati selezionati tra gli innovatori italiani che il ministero ha portato a Shanghai per l'Expo 2010. Sì, esattamente. Grazie appunto a questo sistema, questa piccola suite per il monitoraggio delle polveri sottili in atmosfera che utilizza questa tecnologia, essendo appunto un sistema piccolo, pratico, portatile, in effetti in qualche modo è sembrato interessante per quanto riguarda proprio appunto la selezione per la mostra degli innovatori all'Expo di Shanghai che ha effettuato il governo, il Ministero dell'Innovazione. Quali sono le applicazioni di cui ancora non abbiamo parlato che avete in mente magari in un futuro di applicare alla vostra microbilancia? Dunque, la microbilancia si presta innumerevoli applicazioni. Infatti, immagino. Alcune di quelle che in effetti già stiamo in qualche modo implementando riguardano il settore della biosensoristica, quindi la possibilità di effettuare delle misure di microorganismi o batteri o anche diciamo comunque nel settore della salute umana. Per esempio, o dell'agroalimentare, diciamo, sono alcuni dei settori in cui possono essere applicate queste microbilance. Bene, per chi volesse avere informazioni su questa tecnologia può trovare tutto sul sito www.novaetech.com e la sede della società è a Napoli. Grazie Ferrini e buon lavoro. La ringrazio, buona serata. Le cattedrali della preistoria è un libro che vi porta nelle caverne preistoriche. Ascoltiamone un breve estratto. L'acqua gocciolava lentamente dalle stalattiti sul fondo della caverna, mentre noi cominciavamo a scivolare qui e là, trattenendoci a stento dal cadere man mano che avanzavamo sempre più in profondità nel buio della grotta. Facendo troppa attenzione al suolo, non saremmo riusciti a vedere per tempo un improvviso abbassamento del soffitto della grotta davanti a noi e a evitare di sbatterci la testa. Il percorso sotterraneo era estremamente infido. Poche persone lo attraversano e non c'è alcun ausilio per trovare la strada. Non ci sono sentieri segnati, non ci sono gradini o pavimentazioni, né illuminazione elettrica. Sussidi di cui ora sono dotate quasi tutte le grotte aperte al pubblico. In parecchi punti il percorso si ramificava, conducendo a remoti vicoli ciechi, e si poteva camminare o strisciare per chilometri unicamente per realizzare che ci si era completamente smarriti. La claustrofobia cominciava a serpeggiare. A quale profondità ci trovavamo ora nel sottosuolo? Il terreno mutava spesso mentre scendevamo lungo quello che un tempo era un fiume sotterraneo alimentato dal ghiaccio proveniente dal fondersi delle calotte che avvolgevano queste montagne nell'era glaciale. Poi eccoci a camminare sul fango e sulla sabbia che una volta costituivano il fondo di un antico lago sotterraneo. Quella che avete ascoltato è una breve cronaca di una discesa nella grotta di Nio. Siamo nei Pirenei. Il narratore è Amir Axel, un abile divulgatore di scienza, insegna storia della scienza alla Boston University. È appena uscito un suo libro, Le cattedrali della preistoria, come vi dicevo prima, edito da Raffaello Cortina. Voglio leggervi un altro passo di questo libro, quello iniziale. Uno dei più grandi misteri dell'esperienza umana sulla Terra, se non il più grande di tutti, è la comparsa circa 32.000 anni fa di imponenti dipinti, disegni e incisioni di animali entro profondi e spesso quasi inaccessibili recessi di ampie caverne dell'era glaciale, in Francia, in Spagna, con qualche caso anche in Italia meridionale. A quanto pare le opere d'arte hanno seguito norme assai peculiari, ritraevano quasi esclusivamente animali con poche figure umane che non venivano mai raffigurate con dettagli così precisi come gli animali. Lo sfondo era del tutto assente, mancano alberi, fiumi, montagne o qualsiasi suolo. Gli animali appaiono come fluttuanti nello spazio, le loro figure spesso si sovrappongono. Sorprendentemente questa particolare pratica è rimasta completamente immutata per 20.000 anni, da 32.000 anni fa fino a circa 12.000 anni fa. L'arte rinvenuta in tutte le grotte decorate segue pedissequamente questo schema. Poi, più o meno 11.500 anni fa, la prolifica attività artistica nelle grotte profonde è giunta a una conclusione, improvvisa. L'enigma dell'arte rupestre è perché? Perché i cacciatori raccoglitori europei di Cro-Magnon hanno speso così tanto tempo, sforzi e risorse a penetrare in grotte profonde, buie e pericolose, ove avrebbero potuto incontrare orsi delle caverne o leoni, o perdersi e morire. La grotta di Nio è uno di questi luoghi, quasi 1.000 metri in profondità, per raggiungere quelle volte di pietra sulle quali i nostri antenati 20.000 anni fa hanno dipinto immagini bellissime, quelle che appunto vi ho descritto leggendovi poco fa l'estratto dal libro. Il libro raccoglie alcune delle ipotesi più condivise sui motivi alla base di queste opere, cercando di arrivare a quelle conclusioni che si presentano come più probabili. Era la terza puntata di agosto, questa di Möbius che avete appena ascoltato. Se andate sott'acqua nel Mar Rosso, chiamate il Dipartimento di Biologia dell'Università di Bologna. Per un intervento plastico al naso, dubitate fortemente di chi vi consigliasse di attaccare le narici al vostro avambraccio. E con questi utili consigli di vita quotidiana, Möbius vi saluta. Ci sentiamo fra una settimana. Radio 24 e Fondazione Sigma Tau vi hanno presentato Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.